E tra un po' Southside con Fergal, attenzione perché c'è un grande appuntamento, ospite di Fergal, oggi ci saranno i Placebo. Ragazzi, a domani, ciao! Dopo il notiziario, welcome to the future. Southside. Alle 18 l'appuntamento con l'informazione. News. RCA. Hello everybody and you're very welcome to Southside. Questo mercoledì pomeriggio e ragazzi, ma quante cose che abbiamo da fare oggi. Allora, verso le 18:30 arriva un'intervista con i Placebo che abbiamo registrato al Palla Partenope prima del loro concerto a Napoli la settimana scorsa. E poi abbiamo tanto bella musica da ascoltare. Iniziamo con un po' di musica francese. Il nuovo album si intitola Discovery e sta avendo molto successo. Infatti una rivista inglese l'ha nominato come forse il migliore album di dance mai registrato. Sono i Daft Punk dall'album Discovery. Questo è Harder, Better, Faster and Stronger on Southside on Radio Kiss Kiss Network. Buon ascolto. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over, work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Yeah. shortcuts. Gonna dress in drag, only a fool here would think you've got anything to prove. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to have, but things have changed. The first woman I meet. Couldn't have run a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even feel to me. Ecco, un bel regalo per tutti i fan di Bob Dylan, suo ultimo pezzo, Things Have Changed, le cose hanno cambiato, e veramente sì, perché ha vinto un bel Oscar presso le Academy Awards la settimana scorsa per il migliore brano incluso in un film, e Bob Dylan è stato meravigliato e molto contento di questo pezzo, e ha suonato in Australia via satellite in serata al Academy Awards. Spot Time. Giuliani, salute, benessere e bellezza. In questo comunicato parliamo di benessere e bellezza. Belli i miei capelli? Lo so, me lo dicono tutti. Ma la loro bellezza viene da dentro, con Bioscalin Retard. Una sola capsula li nutre e li protegge tutto il giorno. Bioscalin Retard ha risolto il problema dei capelli fragili e opachi. Bioscalin Retard, capelli a prova di radicali liberi. Bioscalin Retard, in farmacia. I miei capelli? Stanno bene. Giuliani, siamo quelli dell'amaro. Kiss, kiss. Dalla ricerca Collistar, il rivoluzionario autoabbronzante ad effetto naturale. Vuoi una splendida abbronzatura tutto l'anno anche senza sole? Prova i nuovi autoabbronzanti Collistar ad effetto naturale. Crema viso, crema corpo e il praticissimo spray. Perfetti anche per l'uomo. Autoabbronzanti Collistar, in profumeria. Collistar. Io guardo il risultato. Kiss, kiss. Climatizzatore, ABS e nuovo sistema di assistenza alla frenata di emergenza. Airbag conducente, passeggero e laterali. Fari fendinebbia, chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenza. Con Renault Megane Station Wagon Air 1.9 turbo diesel a iniezione diretta, a lire 27 milioni e 100 chiavi in mano IPT esclusa, tutti gli optional sono di serie. Qualcosa in più darebbe solo fastidio. È un'iniziativa della rete Renault, valida fino al 30 aprile 2001. Kiss, kiss. In edicola con Anna c'è Salve. Su questo numero, sesso e fantasia. In amore, il cervello è il più importante organo sessuale. Tutte le armi per eliminare la cellulite. Snella e sazia con la nuova dieta del piatto unico. Anna con Salve è in edicola sole 3.500 lire. This is the Kiss Kiss Network. Southside. The loudest. The most powerful. And Listen to a new radio station. A new sound. Southside. Southside. Quello che avreste voluto sempre ascoltare. Questo è Only for a While ed è un nuovo di Top Loader. Allora, eccoci qua arrivati al momento della storia del rock, che è successo il giorno 4 aprile nei tempi precedenti. Allora, nel 1964 i Beatles hanno salito in cima alla classifica della Gran Bretagna e l'America con Can't Buy Me Love, e infatti avevano 5 singoli nei top 5 in America. Eccoli con Can't Buy Me Love. Can't buy me love. Cause I don't care too much for money. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money. Money can buy me love. Can buy me love. Everybody tells me so. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Kiss Network. Southside. The loudest. The most powerful. Questo pezzo, questo è Raso Hara, il pezzo si intitola Reality. Noi vi abbiamo fatto sentire la versione dance lunedì, ma questo è la versione acustico, è proprio bellissimo. Allora, come vi ho annunciato all'inizio del programma, abbiamo incontrato i Placebo la settimana scorsa prima del loro concerto a Napoli, e subito dopo questo pezzo ascoltiamo l'intervista. Questo è Slave to the Wage. Thank you. That's Placebo and Slave to the Wage, e quello è il secondo singolo del loro terzo album Black Market Music, e loro hanno fatto un tour dell'Italia proprio in questi giorni, e adesso ascoltiamo la chiacchierata che abbiamo fatto prima del loro dato napoletano. Parliamo con Brian Molko, il cantante, Steve Hewitt e Stefan Alsdell, tutti e tre. Hi, I'm Brian. I'm Steve. I'm Steph. Siccome loro hanno fatto molte date prima di venire in Italia e continuano il tour dopo, prima gli ho chiesto come stava andando il tour. Oh, very well. I think we're continually surprised on a kind of a daily basis at the success of the record, really. We keep getting, you know, the amount of people who are showing up to the gigs is still shocking, which is a good thing. We're very enjoying ourselves a hell of a lot. Yeah. Best European tour we've done so far. Then again, it's best record we've made, so it's kind of matching up together is quite good. Ecco, parole di Steve Hewitt e prima Brian Molko, che dicono che sta andando proprio benissimo il tour, e siccome loro credono che questo disco è proprio il migliore disco che abbiano mai fatto, sono proprio contento di essere in giro a fare il tour. Abbiamo sentito Slave to the Wage. Slave to the Wage is a song which encourages individuality, which talks about chasing your dreams, and basically says that you do not have to take the road most traveled by other people in order to become a personal success. And I don't mean commercial success, I mean personal success. And I believe that's what we've done as individuals, and that's something that we have very much in common, is that we all grew up making choices about our lives which we were continuously told not to make. And so it takes a great deal of courage and strength and belief in oneself and blind faith in order to achieve what we've achieved. And we worked very hard, but also we have been chasing our dream. A lot of people dream and don't act upon it, and that's what the song encourages. So we're the opposite of it. We are living proof that you can take the road less traveled and become a personal success, do what you do best, and just ignore the constraints of regular society. It can work. Allora dice che non è una contraddizione, perché praticamente Slave to the Wage parla di avere un successo personale, non proprio commerciale, di seguire la strada meno viaggiata, di avere il coraggio e la forza e la fede in te stesso per fare quello che vuoi, per realizzare il tuo proprio sogno, e che uno può proprio fare quello che vuole fare, che è in grado di fare a migliore. Loro sono proprio la prova che si può ignorare i costrenti della società. Una recensione che dicevo che il primo album Placebo era come la festa, il secondo album Without You I'm Nothing era come la mattina dopo. Gli avevo chiesto come descriverebbero loro il terzo album Black Market Music. The shower. The shower before the night before again, I think. Yeah, it's when you wash all the shit off you, you know, and then you start looking out the window a little bit more and go, whoa, it's a big bad world out there, you know, kind of thing. Praticamente lo descrive come la doccia, guardando fuori attraverso la finestra il giorno dopo e di prepararsi per il giorno che arriva. E con questo andiamo indietro dall'album Without You I'm Nothing. Questo è uno che hanno fatto live in concerto, proprio bello. Questo è Pure Morning from Placebo. Crawling, pure morning, pure. friends indeed. A friend who teases better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test and we will never sever. Days gone and skin crawling. Days gone and skin crawling. Days gone and skin crawling. Days gone and skin crawling. Pure morning, pure morning, pure morning, pure morning. Questo è Pure Morning, dell'album Without You I'm Nothing. Noi stiamo parlando con i Placebo e siamo con Brian Molko e Steve Hewitt e Stefan Olsdell. Allora, ho chiesto a Brian Molko a proposito dell'album Black Market Music se c'erano molti pezzi autobiografiche e per esempio Blue American mi sembrava molto biografica. Questa è la sua risposta. Well, to be honest with you, my mother's actually hard of hearing, so that's very handy, you know. Which means that she probably listens to the music but doesn't actually kind of understand everything that's going on. It's not actually, the song isn't about my own mother, really. It's 3.5 minutes of self-disgust, American style. Basically, the person who inhabits that song is disgusted with his or her own humanity. And there are several examples, religion, self-help, racism, which increases his disgust. So it's not as personal as it seems on a superficial level, even though every track has a great deal of personal things to it. But you know, it's autobiography tempered with fiction. Allora, praticamente Blue American è 3 minuti e mezzo di autodisgusto, cioè disgusto per se stesso. È un personaggio che è proprio disgustato dalla propria umanità, della religione, del razzismo. E anche se il brano è personale sul livello superficiale, non è autobiografico. Comunque io poi a questo punto ho preso l'opportunità di chiederlo se un altro brano, Commercial for Levi, era autobiografico, che lo volevo pure assomigliare a Stuck in a Moment You Can't Get Out of the U2, che parla di un tipo che deve aiutare se stesso. an incident where I almost died once, yeah, in Milan, but thankfully a couple of mates helped me out, pulled me back from a moving car, and I'm still here, probably to the dissatisfaction of many, but it's a song essentially about friendship and bad lifestyle choices, really. And it's told from the point of view of a friend saying, you know, you've got to change your lifestyle, otherwise you may not be on this earth for very much longer, and you're my friend and I love you, so please don't fuck up, you know. Which has certainly happened to me in the past. I'm stuck in a moment that I can't get out of, that you can't get out by U2. I think it's a very powerful song. Actually meant a lot to me when it first came out. It really kind of spoke to me. Because of like personal situations in my life, so it helped me to change and helped me to get back on the upswing. That's great, you know. That's really fantastic, you know, that music has that effect on you, and especially when you do it for a living, that music can still have that effect on you, that you haven't become cynical. Ecco, questo è Brian che dice che a Commercial for Levi parla di un episodio a Milano dove è quasi morto quando è stato quasi travolto e investito da una macchina, però meno male gli amici li hanno tirato indietro all'ultimo momento, e parla praticamente dell'amicizia in generale e le scelte delle vite cattive che potresti prendere e come gli amici sono molto importanti ad aiutarti. E quando è uscito Stuck in a Moment degli U2, lui si è sentito molto molto toccato, molto impressionato da questo brano, e questo gli ha fatto cambiare il suo modo di vivere. Dice che è proprio fantastico quando la musica può farti cambiare il modo di vivere, e che è molto molto fortunato di lavorare in questo campo. Noi adesso prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e torniamo con il brano dei Placebo, Commercial for Levi. Spot time. ABS, cinture di sicurezza, servo sterzo, doppio airbag, barre laterali, pneumatici, lisci, Per guidare sicuri, la prima cosa sono i pneumatici. Dal 1 al 30 aprile i controlli sono gratuiti dai gommisti che aderiscono all'iniziativa Pneumatici sotto controllo. Vai su www.pneumaticisottocontrollo.it. Controlla i tuoi pneumatici, perché tu non sei di gomma. La Columbia TriStar Films Italia presenta Ci sono corpi votati alla fedeltà. Se io amo una donna, le altre, come dire, le altre non le guardo, non esistono! Ci sono corpi nati per l'azione. Se ci avessi da lavorare, domani assaccarne ancora. E poi c'è lei. Luna! Nicola Pistoia, Pino Amendola, Megan Gale, Maurizio Casagrande, Maurizio Aiello e Maria Grazia Cucinotta in una divertente commedia dove niente finisce come era iniziato. Stregati dalla Luna, nei cinema. Quella è un tipo di donna che se rimane da sola con me, si uccide. Ti piace l'Audi A2? Bellissima. E il radiocomunicato, ti piace? Bellissima. La macchina, ma il radiocomunicato, ti piace? Bellissima. Audi A2 in alluminio, out of the ordinary. Venite a vederla dai concessionari Audi. Sì? Pronto? Concorso Digital Gusto Amorositas? Con che? Ma lo sa che ore sono? Sì, è l'una di notte e so anche cosa si vince. Ogni giorno t-shirt, lettori DVD ed MP3 e con l'estrazione finale tante fotocamere digitali. Insomma, ho vinto! Vinto un corno! Sveglia! Il numero giusto è 02 44 88 6 88 6 oppure vai sul sito www.morositas.it. Concorso Digital Gusto Amorositas. Digiti giusto, vinci di gusto. Pronto? Concorso... Ancora? Outmin. Listen to a new radio station. A new sound. Southside. Southside. Quello che avreste voluto sempre ascoltare. You're the one who's always choking Trojan. You're the one who's always bruised and broken. Sleep may be the enemy. Another line of serenity. You should take more time. You're the one who's always choking Trojan. You're the one who showers all this golden funk and bestiality. Wow, it's anesthesia life. It's ahead of me. You should close your fly. From the album Black Market Music by Placebo. Noi stiamo intervistando i Placebo e visto che ci sono molto più brani della politica sull'album, gli ho chiesto la loro opinione sulla politica inglese. Politics in general these days is quite a scary thing, really. I think, you know, on an artistic level, any form of artistic expression is by nature a political statement. That's what makes it art, you know, because what art does is that art either holds a mirror up to life, or it says something about the human condition, or communicates emotion. Whereas entertainment, your Britneys of this world, your soap operas, you know, they're designed to make you not think about your life. And we're interested in art, so I think by nature it's usually quite political anyway. And it's always kind of been there. We've always believed in what we believe. We've always had our own, you know, personal politics. It just maybe didn't manifest itself as strongly because we were probably younger more than anything, and we're in our early 20s, you know, we're all pushing 30 now, and your focus changes, you read the papers more, you know, you look at the world a bit more. Yeah. You grow up and molti different things become more important to you. So. Allora Brian risponde che in pratica la politica in generale è paurosa in questo periodo, però qualunque brano, qualunque pezzo di arte è una dichiarazione di politica, perché invece a differenza dell'entertainment che praticamente ti fa dimenticare della vita reale, l'arte ti deve fare riflettere sulla vita reale, e siccome adesso loro si sono invecchiati un po', non sono giovani come una volta, hanno quasi 30 anni, dicono che si legge un po' il giornale, si riflette un po' di quello che sta succedendo, è perciò che quest'album ha un po' più di politica. Credo che con Fred Durst e Limp Bizkit Brian Molko non va molto d'accordo. Gli ho chiesto la sua opinione sul cantante di Limp Bizkit, e poi a gennaio hanno suonato in Australia a Sydney ad un festival con i Limp Bizkit, e a quel concerto è morta una ragazza di 15 anni, e quindi ho chiesto a loro la loro impressione di questo incidente. Well, Fred Durst actually paid me a really big compliment recently, and it was printed in Q magazine. It said, "No matter how good they are, that singer's out of his mind." And for coming from a retard like him, I thought that was a great compliment, really. His mind slowly, it must be. It means that he can't deny the quality of the music. He thinks that we're a bunch of puss, you know, and that he can't really he'd rather be in Eminem's videos. The thing that happened in Australia was incredibly unfortunate. However, I think it's a complex issue, and really, from my understanding, the organizers of the festival and Limp Bizkit did not see eye to eye. Limp Bizkit had their own agenda, and I think that the security on the big day out was actually very of a very high quality. I think it was basically the case of somebody wanting to a band wanting to do things completely their own way and not wanting to be flexible. Allora dice Brian che Fred Durst gli ha pagato un complimento molto buono nella rivista Q, è una rivista inglese. Dice: "Non importa quanto brave sono queste band, però il cantante è proprio fuori dalla testa." E quindi dice Brian che praticamente Fred Durst non può negare la qualità della musica, e questo preferisce stare nei video di Eminem invece di stare con loro. E l'incidente in Australia è stato un incidente molto sfortunato, perché gli organizzatori non andavano molto d'accordo con i Limp Bizkit e viceversa, e la sicurezza di quel giorno era di un alto livello, però purtroppo succedono queste cose. E continua a raccontarci la sua impressione del placebo e Steve Hewitt. It's not really clear what happened, and it was a very hot day in Sydney as well. People have been out there. It was very hot, and the girl probably stayed there for 12 hours, and you forget, it was about 60,000 people. And when you get a lot of people together, there's going to be unfortunate things like that are going to happen, you know, just by the nature of a lot of people being there. You know, if you have a lot of people in population, some people are going to die. Allora dice Steve Hewitt che non è molto chiaro quello che è successo, e continua poi Stephen Oldsdale che dice: "Faceva proprio caldo quel giorno. Quella ragazza di 15 anni stava lì per 12 ore sotto questo sole caldissimo, e c'erano altre 60,000 persone. E purtroppo, quando vengono insieme tutte queste persone, è quasi inevitabile che succederà una cosa del genere." Anche se hanno un amico con Fred Durst e Limp Bizkit, i Placebo hanno molti molti amici. Per esempio sono amico di Bono degli U2, Michael Stipe dei Rem li ha chiesto di compare nel suo film Velvet Goldmine, hanno registrato lo studio di Peter Gabriel, e sono degli grandi amici di David Bowie, e quindi li ha chiesto come lavorare con il loro idolo David Bowie. I think everybody's probably a big fan of Bowie, really. You know, it's the kind of thing that you grow up with. It's always kind of been there, these songs, you know. I remember Ashes to Ashes very well. The video had a very big effect on me. You know, Let's Dance in 83 was all over the place. So it's an interesting character, because somebody that you can't deny their existence, basically. You can't run away from Bowie. You know, he'll just keep running after you. He's a great man. He's just an absolute joy to work with. A brain, a complete brain, and very professional, very generous. And to write a song and to get a phone call saying, "I want to sing on your song," from a living legend like that is incredibly flattering. And we've done a lot of gigs together, and are good friends. So it's really quite a humbling and an honor to spend time with people like that. They teach you a great deal. Le parole di Brian Molko, il cantante dei Placebo, che dice: tutti sono un fan di David Bowie, praticamente, che si ricorda Ashes to Ashes e Let's Dance del 1983. Dice che non puoi negare l'esistenza di David Bowie, è proprio un uomo mitico, un gioia lavorare con lui, che ha un grande cervello, è molto professionale, è molto generoso, e il piacere di aver scritto un brano e poi di aver ricevuto una telefonata da David Bowie che ha chiesto di registrarlo con lui è stato immenso. Sono diventati molti buoni amici ormai, e che è stato un grande onore lavorare con David Bowie e in generale con persone del genere, perché ti possono insegnare un sacco di cose. Ecco, adesso on Radio Kiss Kiss Network we're going to play that collaboration. Questi sono i Placebo with special guest David Bowie, and Without You I'm Nothing. Okay, that's Placebo, Without You I'm Nothing, with the very special guest David Bowie. Noi stiamo parlando con i Placebo, l'abbiamo intervistato prima del loro concerto a Napoli e non potevo non chiedergli di quello che è successo al grande festival di Sanremo. God, Sanremo reaction was a typical Placebo reaction to that much corporate nonsense, basically. It'd been a long couple of weeks as well, and we'd done 5 countries in one day, from Toronto to Sanremo, and few beers down the line, and we walk out into that after doing so much corporate stuff. It was kind of it was like being force-fed almost. Sono le parole di Steve Hewitt a proposito di Sanremo. Dice che la loro reazione a Sanremo è stata un tipico reazione dei Placebo. Erano un paio di settimane molto lunghe, avevano fatto 5 paesi praticamente un giorno da Toronto a Sanremo, e dopo aver incontrato tutti questi executives eccetera, dopo aver inguaiato un po' più di un paio di birre e dover uscire sul palco a trovare questa situazione qua, non avevano scelto di reagire così. Adesso passiamo alla parola a Brian Molko, il cantante, a proposito di quella reazione a Sanremo. Yeah, it was kind of we knew that it was a very commercial thing, but we didn't actually realize how disgusting it was until we actually got there. And when we got there, we were kind of at our wit's end, really, you know, both physically, mentally, and emotionally. And the only way to stay alive that day was to sort of like to get enough alcohol in your blood system, or blood in your alcohol system, really, in order to get through it. However, the kind of the way that we reacted, I think, was quite spontaneous, really. And I think that sort of whilst this whole thing was going on, I think we just kind of like questioned our presence, and we had to say something, you know. And you couldn't say anything because it was a mime, and the microphone was off, so you got to say something with your actions, really. So it's just, you know, it's like, what the hell are we doing playing Eurovision? Allora dice Brian che sapevano che era un festival molto commerciale, però si sono disgustati molto quando hanno capito quanto era commerciale. Erano molto molto stanchi, sia fisicamente, mentalmente e emozionalmente, e dicono che per sopravvivere a una cosa del genere bisogna bere tanto, tantissimo. E la loro reazione era molto spontanea, si stavano chiedendo la loro presenza lì, dovevano dire qualcosa a proposito di quello che stava succedendo. E siccome non potevano parlare, stavano solo mimando, il microfono era spento, hanno fatto l'unica cosa che potevano fare, hanno detto: ma che cavolo stiamo facendo a suonare al Eurovision Song Contest? I Placebo hanno suonato Special K. Allora, l'ultima domanda che ho fatto ai Placebo era: quale sarebbe il sottotitolo di questo brano, visto che loro nel preparazione dell'album avevano scritto un bel sottotitolo dopo ogni brano che magari spiegava pure il brano e il contenuto. Well, the original subtitle says it all, really, and it was "What goes up must come down," and it just compares the rush of falling head over heels in infatuation with somebody to the rush of coming up on controlled substances, which is a very useful and very effective metaphor, which I've used before. Allora dice Brian che il sottotitolo originale spiega tutto a proposito del brano Special K. Era "What goes up must come down", cioè quello che sale deve scendere, e praticamente fa il confronto tra il feeling di innamorarsi pazzamente e fa il confronto di drogarsi. Dice che questa è una metafora che lui l'ha trovato molto effettivo e ha utilizzato molto nel passato. Just if you could just send one message to our listeners in Kiss Kiss Network, just say hello and then we'll say goodbye. Hi, I'm Brian, and you may remember me from San Remo. Hi, I'm Steve. Kiss Kiss. I'm Steph. We'll see you soon. Great. Thank you very much, and have a good time in Italy. We'll speak to you soon. Thank you. And thank you very much to Placebo, che abbiamo intervistato prima del loro concerto napoletano la settimana scorsa, e che bello era pure quel concerto. Noi vi lasciamo adesso con questo pezzo che hanno suonato a Sanremo, questo è Special K. Allora devo salutare a tutti quanti che mi hanno aiutato a montare questa intervista. L'appuntamento di Southside è domani alle ore 18, ci sentiamo domani. Per un'ora Virgo ti proietta nelle nuove tendenze.